Se la pasta è ancora calda, quando sei sveglia cerchi di far finta di dormire, dire che ti arrabbi se non sto in silenzio a sentire, gire di nascosto con te non posso, sembrava quando leggi le bugie addosso e doccia in viso il tuo sorriso e per inciso il paradiso ha perso un angelo indeciso sul colore del vestito, ma se solo tu cosa dire di più, saresti in grado di estrarre la spada di tu, in fondo non ti manca proprio niente, molto bella, divertente e semplicemente unica in ogni genere, proprio tu, la mia Venere, il tuo sguardo sa esprimere poesia, se non l'ho reso l'idea tutta la colpa sarà mia, e già, scusa tanto, sono le parole che non rendono il confronto, difficile spiegare quanto sei speciale, impossibile trovare chi non ti possa amare, sai, piace a molti, dai più secchioni ai meno colti, ma il tuo preferito già si sa chi è, e chi ora sta cantando ed è di fronte a te. Dimmi di sì, com'è bello guardarti, meglio così, se distinguerti dagli altri, certo che sì, non ho voglia di alzarmi. Dimmi di sì, non importa fare tardi, vieni qui, com'è bello baciarti. Dimmi di sì, non vorrei che te ne andassi. Dimmi di sì, se non piace ascoltarti, mi dici così, che è difficile lasciarti. Dimmi di sì, dimmi di sì. Lo so, ma non è facile esprimersi, non è semplice spiegare con parole, ma il cuore che batte solo per te non riesce a smettere, tu sai il perché. E come l'estate che ti dà dipendenza, e come mal di testa per l'influenza, come ti arrabbi se non ho pazienza, ma senza di te non avrei più speranze, sostanza quando sei in stanza, fosse vuota ma con te è già abbastanza, ti porterei con me da sole la distanza, e se fosse reato sarei colto in fragranza, basta vederti in viso, quando tutto posso dire tanto è già deciso, quando ti commuovi è l'improvviso, stringi forte poi mi baci ma senza avviso, dolce molto fiera a volte troppo sincera, mi fa aspettare fuori non sei pronta stasera, tanto ormai è saltata pure la cena, poi esci ti guardo e ne balza la pena, dimmi di sì, com'è bello guardare.